E se i soldati che ruppero nella tenda di Dio furono quella disperata bega che ha l'odio, allora io avanzo il pugnale in un pugno stretto e ti ammazzo. Ma è tutt'uno l'universo e tu lo sai. L'aria pura, la malattia e il sonnellante addio. L'aria pura, la bistecca marcita e l'ultima verdura dell'estate, il seme dell'ultima violenza dell'estate.